racconterò ancora un'altra storia, magari ti addormenterai. Il rituale della sera, bambina, sappi che potrai semmai poter pensare che domani, quando ti risveglierai, giocheremo a nascondino, ma quando tu mi troverai semmai, la notte ti porterà rispetto per quello che dici, per quello che fai, e stare in piedi mentre togli il berretto per quello che pensi e la strada che fai. Il giorno ti guardi ancora dentro lo specchio e chissà domani che diventerai, sposa banale stretta dentro un corsetto o supereroe che male non avrai mai mai. Guarda un po', ci sono cose che restano dentro, le cose più belle, le cose che hai, restano ancora chiuse dentro il cassetto, nascondile bene che un giorno le userai. Guarda un po'. Asciugherò ancora la tua faccia, che il trucco è presto e tu lo sai, hai fretta di diventar grande, ma prendi tempo che non si sa mai. Potrai pensare che domani, quando ti risveglierai, faremo un salto a mosca cieca e sorridendo tu mi bacerai. La notte ti porterà rispetto per quello che dici, per quello che fai, e stare in piedi mentre togli il berretto per quello che pensi e la strada che fai. Il giorno ti guardi ancora dentro lo specchio e chissà domani che diventerai, sposa banale stretta dentro un corsetto o supereroe che male non avrai mai mai. Guarda un po', ci sono cose che restano dentro, le cose più belle, le cose che hai, restano ancora chiuse dentro il cassetto, nascondile bene che un giorno le usi.